Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, no, the secret part. The people down below, we all want to know how to play the game of life before we got to go. He looked at me and said, I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun, but if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do. Buonasera, buonasera, eccoci qua, ritrovate, ritrovati, ritrovato su Radio Wombat, questa è Nervature, io sono Addu, come sempre ogni lunedì alle 19 circa, diciamo, anche oggi qualche minuto di ritardo, mi perdonerete. Ebbene, quindi oggi lunedì 24 novembre, mamma mia, ci stiamo avvicinando alla fine di questo 2025, fa paura, va bene, non ci pensiamo troppo, perché tra l'altro di solito quello che vi racconto qui su Nervature vale per tutto l'anno, non ci focalizziamo troppo sul periodo e sulla stagione a volte sì, invece sul periodo non troppo. Che dire, quindi siete su Radio Wombat, Radio Libera Autogestita di Firenze, ci ascoltate dal sito radiowombat.net tramite lo streaming oppure dalla frequenza 1359 delle AM, ovviamente in area fiorentina. Il sito appunto ve lo consiglio anche per ritrovare tutti i podcast delle puntate precedenti, della mia e delle altre trasmissioni, e anche per conoscere una serie di altre cose utili e importantissime, per esempio i contatti, quindi come chiacchierare con noi. Innanzitutto lo potete fare dal pad, soprattutto adesso che sono in diretta, quindi vi rispondo appunto qui ai microfoni in diretta, e il pad lo trovate al link direttawombat.vado.li, è il foglio di testo condiviso che appunto usiamo per chiacchierare con voi. Altrimenti, se no, sempre alla sezione contatti trovate per esempio la casella di posta per qualsiasi domanda, proposta, dubbio, saluto. Che dire, io in realtà per ora vi metto un po' di musica e iniziamo la puntata di quest'oggi fra un attimo. Devo un attimino risistemare qui tutta la regia. Però vi preannuncio già di cosa parleremo, semplicemente continuiamo con il filone iniziato lunedì scorso. Quindi lunedì scorso abbiamo parlato di alberi in città, ma in particolare del momento di impianto, quindi di come eseguire un buon impianto in città, non tanto perché lo dobbiate fare voi o io in primis, ma per avere gli strumenti per valutare quello che vediamo a giro. Per esigere anche qualcosa di meglio oppure per complimentarsi con chi l'ha fatto bene, perché succede anche questo. Quindi appunto abbiamo parlato dell'impianto, della buca di impianto, delle difficoltà purtroppo enormi dell'ambiente urbano a partire dal suolo super compattato, spesso inquinato, con poca acqua oppure con troppa in altri casi, insomma tutto l'ambiente urbano un po' delicato, e poi appunto come cercare di ovviare a tutti questi problemi e come anche, vabbè, quello l'abbiamo solo accennato, al come scegliere la specie giusta per quel posto, per quelle necessità. Per adesso vi lascio qualche secondo di musica, ci risentiamo fra pochissimo.

somebody ask me? It's up to you what you do with your life. You have just one, so do what's right. Somebody ask me. Ed eccomi, eccomi, non vi ho abbandonate, sono sempre qui. È un po' difficile in questo momento rientrare su questo tappetino veramente, veramente sculettante, ma ci proverò. Soprattutto per parlarvi di potatura, cioè non so se era proprio quello che volevate sentire alle 7:30 lunedì sera, ma... Sì, sì, sì, diciamo che la scelta musicale poteva essere meno stimolante, forse, perché effettivamente mi risulta difficile addirittura a me riuscire a concentrarmi in questo momento, ma ecco, ci proviamo, ci proviamo. Allora, scusate questo ritardo, ci ho avuto un attimo bisogno di risettare le idee. Allora, quindi come vi preannunciavo qualche minuto fa, oggi continuiamo a parlare di alberi in città e lo facciamo però non più riguardo all'impianto, perché di quello ci siamo occupate la scorsa volta, ma riguardo invece alla gestione, in particolare la potatura. Quindi in realtà la gestione implica, diciamo, comprende varie cose, tra cui, giusto per dirne alcune, controllare, diciamo, essere sicuri ci sia una buona irrigazione, controllo di malattie e controllo di stabilità della pianta, a maggior ragione se grande, perché ovviamente più pericolosa. E poi per esempio anche la potatura, che ovviamente si interseca anche con le altre, insomma magari uno decide di fare una potatura perché la pianta non ha tanta stabilità, come vi potete immaginare. E quindi vorrei iniziare a questo punto a provare a un po' così delucidarci a tutte su che cos'è la potatura. Vabbè, ovviamente la potatura è tagliare parti di una pianta che siano vive o morte. La cosa fondamentale da sapere, e la prima in assoluto da avere sempre molto bene a mente, è che la potatura è uno stress per la pianta. Quindi, facendo magari un micro passettino indietro, la pianta è un essere vivente, cerca di vivere come tutti noi, cerca di raggiungere certi obiettivi, a crescersi, continuare a vivere anno dopo anno, a produrre una prole, quindi dei semi, e per questo ovviamente ha bisogno di risorse, di acqua, di nutrienti, di sole, di temperature adeguate e tante altre cose. Ovviamente succede che a volte arrivi uno stress, chiaramente in natura anche succede, ovviamente, quindi un po' più di freddo, un po' più di caldo, più siccità, troppa acqua, gelate tardive, un temporale, un fulmine, tutti stress totalmente normali in natura. Quello che ovviamente facciamo noi è divertirci spesso a stressarle ancora di più, senza, a volte senza motivi. Quindi quello che la pianta fa, come un qualsiasi essere vivente dopo uno stress, è di reagire, perché ha sentito un pericolo, ha sentito un danno e quindi reagisce, perché è viva, è un essere vivente e vuole rimanere tale, ovviamente. Quindi la prima cosa da sapere è che nel qualsiasi momento noi tocchiamo una pianta e appunto a maggior ragione se la tagliamo, lei lo sa, lo sente, lo capisce e quindi reagisce di conseguenza. Ovviamente facciamo degli esempi, se a un albero alto 15 metri gli stacco un rametto perché sì, me lo voglio vedere, me lo voglio portare a casa, qualsiasi ragione, insomma, vabbè, saranno quei 10 grammi sulle 6 tonnellate di pianta, ovviamente non le fa nessun tipo di danno, quindi chiaramente c'è da entrare un attimo nella proporzione. Se invece, esempio opposto, arrivo pianta di 15 metri e la taglio a metà, letteralmente a metà, ovviamente li sto asportando tantissima parte vivente, parte vegetale, e chiaramente è uno stress gigantesco. Quindi, perché allora, magari viene a chiederci, perché si fa la potatura, se per la pianta è uno stress, se per la pianta è una cosa negativa? Esatto, questa è proprio la domanda giusta da porsi, è esattamente la prima domanda da porsi. Ci sono dei motivi per cui può aver senso voler fare una potatura, ovviamente ci sono, e non è che i giardinieri sono tutti pazzi, per fortuna. Però ecco, sicuramente è bene ricordarsi che nel 99% dei casi, se potiamo, è perché noi, esseri umani, vogliamo ottenere un certo obiettivo e non perché vogliamo fare del bene alla pianta. Ho detto 99% dei casi perché magari se la pianta è ammalata e per esempio una malattia fungina è partita da una branca, da in fondo a una branca, forse si può sperare che tagliando quella branca asportiamo in modo molto repentino e veloce la parte interessata alla malattia, che quindi non riuscirà, non avrà modo di espandersi nel resto della pianta, e quindi forse le facciamo un bene. Ovviamente dico forse perché comunque il taglio, essendo uno stress, potrebbe, diciamo, essere gioco forza, forse comunque più stressante il taglio che lasciarlo gestire la pianta da sola la propria malattia. Quindi questo è giusto per mettervi un po' di dubbi così subito in partenza, e sì, mi dispiace per non dare tante certezze in questa puntata, ma in realtà è proprio l'obiettivo, è quello di riuscire a far ragionare su quello che abbiamo davanti. Quindi, a che punto eravamo arrivate? Eravamo arrivate a capire il fatto che se vogliamo potare una pianta è perché vogliamo ottenere un certo obiettivo per noi esseri umani. Che siamo noi cittadini, popolo di Firenze o di qualsiasi altra città, o che siamo noi proprietari di quel giardinetto privato dove è presente un albero. Facciamo un po' di esempi. Quali potrebbero essere gli obiettivi sensati, si intende, per cui voler potare una pianta? Allora, innanzitutto partiamo magari da esempi semplici. Per esempio, se quella pianta ha delle branche, dei rami, insomma, che magari sono malati, sono a rischio caduta o sembrano malati, insomma, magari abbiamo fatto valutare che sì, non è sicuro tenerli lì, allora forse è una buona idea asportarli. In quale caso? Beh, nel caso in cui cascando potrebbero fare danni a persone o cose. Se io invece, persona singola, sono proprietaria di un terreno, un campo, un bosco, un'oliveta, un frutteto, posso anche decidere di non tagliarli i rami a rischio caduta, magari anche quelli già secchi, perché tanto se cascano non fanno male a nessuno. Quindi anche questa è una scelta. Un altro esempio invece può essere, e questo è particolarmente presente ovviamente in città, è quando parti di una pianta arrivano a toccare o comunque troppo vicine a costruzioni, a infrastrutture, cavi elettrici, pali, pensiline, edifici appunto, tetti e quant'altro. In questo caso ovviamente la cosa su cui ragionare è che se quei rami arrivano lì è perché molto probabilmente la pianta è stata piantata troppo vicina a cose che non doveva toccare, quindi ormai è lì, quindi dal punto di vista della gestione agiremo in questo modo, quindi appunto evitando che arrivi troppo vicina. Però dobbiamo anche essere consci che il problema vero è a monte, non è la pianta che è cattiva e che si vuole espandere perché lei fa il suo, siamo noi che abbiamo sbagliato a piantarla un po' troppo vicina a una casa forse. Oppure un altro caso può essere una vegetazione troppo densa, e questo perché può dare problemi? Può dare problemi perché in alcuni casi una vegetazione molto molto densa porta ad avere poca circolazione d'aria all'interno della chioma e quindi mantenimento di una certa umidità all'interno della chioma, la quale umidità può essere, diciamo, è favorevole per lo sviluppo di malattie fungine, per esempio. Quindi in questo caso si può agire con uno sfoltimento della chioma, soprattutto magari della parte interna, e che però, se provate a figurarvelo in testa, uno sfoltimento è esattamente quel tipo di potatura che non vedete. Cioè prima e dopo la potatura quasi non vi accorgete la differenza, dovete veramente essere attente a guardare. Quindi è proprio una potatura che di solito appunto viene chiamata minima, ecco. Un'altra postilla, magari quando è che c'è vegetazione troppo densa, probabilmente non avverrà in un albero in bosco, nel senso che un albero mai potato, sano e tutto, di solito trova un proprio equilibrio. Quando invece c'è vegetazione veramente tanto densa nella chioma, probabilmente è perché tempi prima, anni prima, è stata fatta una potatura sbagliata, per cui si è accestito tantissimo la chioma tutta nello stesso punto. Poi lo vediamo meglio dopo questo. Altra ipotesi, vabbè sì, l'abbiamo già un po' detto, riparare da danni, quindi appunto danni magari dovuti non strettamente a noi, ma magari appunto un vento forte, una nevicata, un temporale appunto, quindi sempre eventi atmosferici che hanno magari danneggiato una pianta, e allora per esempio un ramo, una branca che è rimasta a mezzo, un po' attaccata, un po' no, e che quindi ha una superficie esposta ai patogeni veramente grande, allora decidiamo di tagliarla prima, così che si leva tutta, però perlomeno la superficie esposta ai patogeni è poca. Oppure se proprio rischia di cadere, e quindi di nuovo il caso di prima, della branca pericolosa appunto. E, altri esempi invece, se potremmo scegliere di fare una potatura per incoraggiare la fioritura. Questo è un esempio interessante, soprattutto magari per capire, per riragionare sulla prima regola che abbiamo detto in questa puntata, ovvero che la potatura sempre e comunque è uno stress per la pianta. Uno stress ovvero uno stress negativo probabilmente, ma allo stesso tempo anche qualcosa a cui lei vuole reagire e che quindi ai nostri occhi magari può portare una reazione che a noi piace. Ecco, appunto, uno di questi esempi è appunto la fioritura. Quindi magari la pianta si sente un attimino in pericolo, tipo, oh, aspetta, ma qui forse il prossimo anno la vediamo brutta, facciamo un sacco di fiori, perché i fiori vuol dire frutto, vuol dire seme, vuol dire dispersione della genetica, quindi mantenimento della specie è esattamente la cosa da fare quando la pianta si sente molto molto a rischio. Per andare all'eccesso, un caso molto molto tipico è di pianta super sofferente per qualsiasi X ragioni, che un anno decide di fare questa fioritura meravigliosa, enorme, tantissimi frutti, magari nelle piante a frutto succede spesso, l'anno dopo è morta, succede. Quindi è l'ultima proprio sprint di energia che la pianta dà, decide di darlo nella fioritura e nella dispersione dei semi. Allora, quello di cui stavamo parlando, però, l'abbiamo chiamato incoraggiare la fioritura, quindi ovviamente non portare la pianta a morire l'anno dopo, si intende, ma diciamo dargli una piccola spintina, per così dire, quindi dire, oh, dai, ti levo, guarda che ti sto levando un po' di foglie, guarda che ti sto levando un po' di, appunto, un po' di energia, un po' di riserve, un po' di, diciamo, potenziale fotosintetico. Cosa fai per difenderti? Ci sta che la pianta decida di fare più fiori. Per fare un caso, un esempio di un caso veramente semplice, anche se non è quello di cui ci stiamo occupando oggi nello specifico, è la potatura delle rose. Classicamente quel tipo di pianta arbustiva che si pota tutti gli anni, non tutte le rose, ma insomma per fare un po' di semplificazione in questo frangente, perché poi quell'anno lì ci saranno un botto di fiori. Quindi funziona, ecco, in questo senso, per incoraggiare la fioritura. Dopodiché, e poi magari faccio un altro stacchetto musicale, dico l'ultima cosa al riguardo. È vero, sì, abbiamo incoraggiato la fioritura di quell'anno, ma che cosa succede in seguito? Quindi avendo un po' di, diciamo, visione più a lungo raggio, può succedere due cose, anche entrambi. Una può essere che quell'anno lì fa un sacco di fiori e l'anno dopo invece farà il contrario, quindi siccome quell'anno lì è stata squilibrata verso il fare fiori, che quindi il fiore non fa fotosintesi, non porta energia in più e riserve in più alla pianta, siamo d'accordo, anzi è il contrario totalmente, richiede tantissima energia fare il fiore e il seme, il frutto e il seme, quindi ci sta che poi l'anno dopo ancora la pianta voglia fare un sacco di vegetazione perché si è squilibrata, ha usato tante delle risorse che aveva da parte e quindi l'anno dopo dice, bene, io però queste risorse non ce l'ho più, le devo rimettere da parte, e quindi fa tante foglie, ovvero fotosintesi, ovvero appunto risorse e riserve. Questo di nuovo accade classicamente negli alberi da frutto, perché spesso appunto li potiamo, magari se potiamo un po' troppo succede questa cosa. Anche vero che alcune piante hanno questa alcune specie proprio hanno questa tendenza naturale di fare alternanza appunto da un anno all'altro. Dicevo, poi l'altra cosa che può succedere è che comunque se noi potiamo spesso una pianta, anche se poco, anche se nel modo giusto e perfetto, come dicevo, semente. Quindi magari, per fare esempio la rosa, perché magari ce l'avete nei vostri giardini, si capisce meglio, invece di vivere 20 anni ne vive 15, che vabbè è un tempo lungo, può essere un compromesso che ci va bene, però ecco, è da essere coscienti, diciamo, di questo fatto. Ripeto che non è un meccanismo, diciamo, provato scientificamente, è più frutto di una serie di osservazioni di giardinieri appassionate e appassionati, però diciamo anche a livello logico sembra essere molto, molto sensato, ecco, come funzionamento di una pianta. We'll be right back.

continuiamo con questa carrellata, con questa diciamo spiegazione, ma la chiamerei piuttosto chiacchierata, di come, quando, cosa, dove, perché potare. E appunto, perché potare? Eravamo proprio lì, abbiamo fatto un po' di esempi e quindi appunto le varie branche possibilmente a rischio di caduta, riparare da danni precedenti, diciamo allontanare le chiome da, da edifici, da infrastrutture. Andando avanti, per esempio, un altro obiettivo, un'altra ragione sensata per potare potrebbe essere quella di riequilibrare la chioma e le radici. Quindi, partendo sempre ovviamente dal presupposto che la pianta è quella che vediamo fuori dalla terra, ma è anche quella che c'è sotto al suolo, e anzi quella parte è veramente fondamentale. Nel caso in cui viene fatto, ci sia per qualche ragione un danno alla parte ipogea, appunto, quindi quella sottoterra, quella delle radici, potrebbe essere utile riequilibrare la parte in alto anche. Appunto, partendo dal presupposto che la pianta è fatta sia da sopra che da sotto, si può immaginare che il sopra e sotto appunto siano in equilibrio, di solito debbano essere in equilibrio. Banalmente perché? Perché il sotto, quindi le radici, sono quella parte della pianta che devono dare nutrimento al sopra, anche al sotto, ma insomma diciamo anche al sopra. Per cui ovviamente devono essere sufficienti affinché il sopra, quindi la parte appunto della chioma, branche, rami, tronco, foglie, riescano a vivere. Per esempio, nel caso in cui invece, come si diceva, le radici siano danneggiate, e mi viene in mente magari dei lavori stradali, degli scavi, perdite di gas, passaggio di tubi, una qualsiasi di queste delle ragioni per cui vengano fatte buche in città, purtroppo avviene molto spesso. Bene, può succedere facilmente purtroppo che si danneggino anche le radici degli alberi circostanti. In quel caso lì sarebbe utile, potrebbe essere molto utile una potatura per appunto riequilibrare un po' a sentimento, nel senso che non si può sapere quanto abbiamo danneggiato la parte delle radici, è un po' difficile a dirsi, però ecco, un po' diciamo l'obiettivo già è molto valido. E, sì, per capire un po' questo principio, questo concetto, magari potete pensare, se l'avete mai fatte, alle talee. Alle trapianti magari. Se spostate una pianta perché non vi piace più in quel posto del giardino, la volete mettere da un'altra parte o in vaso piuttosto che, ovviamente non riuscirete mai a levare tutte le radici che ha quella pianta, perché non sapete nemmeno dove vanno quelle radici, e quindi è utile anche in quel caso potare un po' la parte aerea. Quindi sempre con lo stesso principio di equilibrare. Gli ultimi due esempi in cui mi verrebbe da dire può essere sensato fare una potatura sono quella, di allevamento delle giovani piante, e questo ha senso comunque, se ne parla tanto ovviamente in vivaio, quindi nel momento di appunto coltivazione delle piante, però anche una volta piantate in città è comunque qualcosa di cui tenere di conto. Faccio degli esempi. Se vogliamo, e ne abbiamo anche parlato un po' la scorsa puntata, se vogliamo un viale dove gli alberi sia da un lato e dall'altro della strada, con l'idea che quando saranno grandi e maturi le loro chiome si sfioreranno, si toccheranno un po', e quindi ci sarà proprio un ombrello d'ombra meraviglioso sopra la strada, sopra le macchine e le persone, probabilmente sarà necessario che i rami partano da una certa altezza del tronco. Quindi diciamo che di solito si compra le piante dal vivaio che hanno già bene o male quell'altezza lì, però ecco, magari sarà necessario nei primi anni appunto una potatura di allevamento, quindi quella potatura che ci serve per dargli alla pianta la forma che vogliamo che avrà nel resto del corso della sua vita. Ecco, diciamo quel tipo di forma. quindi appunto a ombrello, a chioma allargata, a magari la pianta tutta bassa ma con la chioma molto espansa, molto larga, oppure il contrario, magari molto più colonnare perché abbiamo poco spazio e il posto di impianto appunto non ha grandi dimensioni. Quindi ecco, un po' in questo senso qui. Ovviamente non mi veniva da citarlo, ma se si vuole una forma topiata, ovvero il cavallino o la siepe, chiaramente quella è una potatura sensata, però ecco, nell'ambito di alberature ad alto fusto in città, questo ovviamente non ci interessa. Di solito non ci interessa, in realtà mi sono venuti gli esempi, ma non perdiamoci adesso. Ultimissimo esempio per cui la potatura ha senso è la potatura di abbattimento, quindi se quella pianta è morta o è estremamente rischiosa, pericolosa, la vogliamo abbattere, la dobbiamo abbattere, ovviamente in quel senso va fatto e quindi si fa. Siete sempre su Radio Wombat, questa è Nervature, mi raccomando continuate a seguirci, continuate ad ascoltarci, se volete non esitate a scriverci, fatelo semmai tramite il pad diretta@wombat.vado.li. love and back to own time. Love on my feet on fire, but I won't back to own time. Love on my feet on fire, but I won't back to own time. This is the long time. E allora ci avviamo insieme verso la seconda, ultima, insomma, la seconda parte di puntata. Quindi abbiamo un po' parlato della potatura in generale e ora magari andrei leggermente, veramente leggermente più nello specifico, giusto per avere un'idea di quello che viene fatto di solito a giro, quello che possiamo vedere appunto nelle nostre alberature della nostra città. Quello che magari andrebbe fatto, o non andrebbe fatto, eccetera, eccetera. Chiaramente sono conscia che non abbiamo un supporto visivo in questo momento, ma vi assicuro che per quello che vi dico non serve più di tanto. Allora, innanzitutto vi vorrei dire come si fa un taglio, ma veramente, veramente due cose di numero molto superficiali, va bene così. E poi due tipologie di potatura, che sono il taglio di ritorno e invece la capizzozzatura, che sono proprio i due estremi, uno buono e uno cattivo, veramente, che ora cercheremo di capire un attimo insieme. Come fare un taglio? Vabbè, ci sono ovviamente tante regole da seguire. Chi lo fa di professione fa corsi specialistici apposta e ovviamente è proprio uno studio e una pratica soprattutto non indifferente. Ci sono, giusto così per darvi un'idea a voi all'ascolto, alcune cose da prendere in considerazione. Una di queste, per esempio, è l'inclinazione che diamo al taglio, perché cosa succede se tagliamo una branca perfettamente in orizzontale, a maggior ragione se una branca magari di diametri un pochino più consistenti, potrebbe succedere facilmente che l'acqua ci si deposita e senza riuscire facilmente a scorrere via. Quindi appunto si formerebbe un pochino di ristagno idrico e un pochino di ristagno in quella parte lì, in quel taglio, che innanzitutto non favorisce, diciamo, la cicatrizzazione della ferita. E poi ovviamente è un vettore di patogeni, di funghi, batteri, insomma, di tutti i patogeni che poi fanno ammalare la pianta. Quindi quello che si fa è di fare sempre i tagli un pochino inclinati, basta poco, basta veramente poco, per fare appunto scorrere via l'acqua. Un'altra cosa invece da sapere è in che, diciamo, una volta abbiamo deciso di tagliare, lo vedremo meglio fra un secondo, con quello che appunto poi vi spiego essere il taglio di ritorno, ovvero appena sopra una gemma o un ramo, bisogna stare attenti a non tagliare troppo vicino alla gemma o ramo che sia, perché si andrebbe a, diciamo, danneggiare la struttura stessa della gemma o comunque il punto in cui il ramo vicino, ecco, si innesta sulla branca che abbiamo tagliato. Quindi questa è un'altra cosa da sapere. E poi c'è una serie di regole, una serie di cose da sapere riguardo alla distanza del taglio dalla branca principale. Quindi se io sto tagliando un ramo, che quel ramo è attaccato a un ramo un po' più grosso, no? Quindi è un ramo secondario magari, lo devo tagliare vicino al ramo primario, ma non troppo. E come si fa a capire quanto? In realtà lo si fa, e questo è molto bello, vedendo e osservando un po' le piante in generale. Per esempio succede, è normale, che la pianta ogni tanto faccia seccare dei rami, perché si autopota comunque la pianta, è una risorsa che ha. E poi quindi cerca di cicatrizzare intorno a quel ramo lì. Quindi se ci fate caso vedrete che nei punti in cui abbiamo tagliato noi oppure un ramo è caduto perché era secco, perché era morto, la pianta cicatrizza intorno, ovvero praticamente la ingrossa la corteccia intorno a dove era il ramo e lo richiude su se stesso, lo fa un blob, insomma lo ingloba un po', ecco. Però questa escrescenza, diciamo questo ingrossamento della corteccia, l'albero riesce a farlo con dei certi margini, cioè non è che può inglobare un moncone lungo 40 centimetri, questo ovviamente non può farlo, non ci riuscirà mai. Quindi bisogna riuscire a tagliare abbastanza vicino, il più possibile alla branca principale, ma anche lì non troppo, perché dobbiamo tenere di conto che il moncherino che lasceremo, per quanto piccolo sia, però quando si seccherà, perché chiaramente quella parte non servirà più a niente alla pianta, quindi si seccherà, in realtà diminuirà di volume, quindi si asciugherà parecchio, e quindi se noi tagliamo troppo vicino alla branca principale, con diciamo il prosciugarsi di questo moncherino va a finire che si crea un buco nella branca principale. Quindi diciamo bisogna fare un pochino poggio e buca tra appunto vicino ma non troppo, ecco, diciamo così. Se vi va appunto di farci un po' caso, di alzare la testa e guardarvi un po' a giro, purtroppo spessissimo si vedono dei tagli, a volte anche di diametri veramente vergognosamente grandi, appiccicati alla branca principale o addirittura al fusto, con l'idea, suppongo, da parte di chi l'ha fatto, che è bellino perché mantiene la forma, no? Cioè non vedi il moncherino che esce, ma mantiene la forma, mantiene la linea del fusto, della branca che sia, e quindi fa tutta una stessa linea. Questa cosa per la pianta è veramente, veramente deleteria. Bene, andando avanti, a questo punto mi verrebbe da provare a raccontarvi, perché spiegarvi in queste condizioni solo audio mi sembra un parolone, quindi a raccontarvi che cos'è il taglio di ritorno. Il taglio di ritorno è semplicemente la potatura che andrebbe fatta sempre. E quindi in cosa consiste? L'abbiamo un pochino già detto. Consiste nel tagliare subito sopra un ramo. Quindi immaginatevi di avere un ramo grosso, quindi chiamiamo un ramo principale, una branca principale, dal quale partono tanti altri rami secondari, quindi un pochino più piccoli. E io, per qualsiasi ragione, abbiamo detto a inizio puntata, insomma, decido di voler tagliare quel ramo, quella branca principale, ma non lo faccio in un punto a caso, lo faccio se quel ramo, quella branca lì, ha delle branche secondarie, e in particolare lo faccio appena sopra a una di queste branche secondarie che sceglierò. Quindi questo è il taglio di ritorno. Immaginatevi di fare questo tipo di taglio non solo sulle branche principali, ma di farlo sulle principali, poi lo posso fare sulle secondarie, poi sulle terziarie, eccetera, eccetera. Quindi questo è il nome, diciamo, del tipo di taglio, poi è applicabile su tutte le parti della chioma, ovviamente, anche su rami molto piccoli, potenzialmente. Ora, magari ha poco senso, però si può fare. Quindi, come mai va fatta questa cosa e non va fatta invece l'opposto, l'estremo opposto, che invece è la capitozzatura? Quindi la capitozzatura è quando abbiamo un ramo, di solito avviene con branche proprio grosse, importanti, quindi tra le principali o all'incirca, insomma, proprio grossa, che non ha rami laterali, decidiamo di... Quindi magari c'è questo ramo che si allunga verso l'alto e che, per esempio, ha 3 metri di altezza, ha dei rami secondari, sì, però io decido di tagliarlo a 1 metro di altezza o 2 metri, cioè prima di una qualsiasi altra branca secondaria, semplicemente con l'idea di quella pianta è troppo alta, la voglio più bassa, cioè senza minimamente ragionare sulla fisiologia della pianta stessa, ma proprio a troncare, appunto, a capitozzare in modo abbastanza illogico la pianta. Quindi tornando al taglio di ritorno, perché si fa questo qui? Perché è il tipo di taglio che permette alla pianta di, nonostante lo stress della potatura di cui abbiamo già parlato, permette alla pianta di mantenere una struttura logica al suo interno, nel senso che la pianta vuole sempre dirigere la linfa verso le foglie, cioè anzi, vabbè, senza entrare nei termini tecnici, ma diciamo vuole sempre dirigere energie e risorse verso la fine, ultimissima fine dei rami, ovvero le foglie. Se noi tagliamo un ramo a metà, per la pianta non ha senso. Cioè, infatti non vedremo mai una pianta che si accresce senza foglie, un ramo che parte, si estende ma non fa foglie. Non lo vedremo mai questa cosa, non è naturale per la pianta. Quindi quello che invece possiamo fare eventualmente, se decidiamo di potare, è solo il taglio di ritorno, dove quindi complessivamente, per esempio, se abbiamo necessità di abbassare la chioma o di allontanare un edificio, lo facciamo, abbiamo un modo di farlo, ma dando alla pianta, guarda, ti ho levato il ramo apicale, ma adesso puoi, invece che sfogarti sul ramo apicale, ti puoi sfogare su quello sotto, cioè quello sotto te l'ho lasciato, ce l'hai ancora. Quindi poi la pianta deciderà, anche perché non ha scelte, di mandare le risorse, mandare tutto verso quei rami che noi le lasciamo. Questo è un po', ecco, il perché si fa il taglio di ritorno. Magari un secondino di musica, che sennò qui ci si frigge il cervello a me e a voi, e poi vi parliamo un attimo della capitozzatura. Quindi cerchiamo di capire come mai questa famosa capitozzatura viene ancora fatta e soprattutto quali tipi di danni provoca. Intanto probabilmente viene ancora fatta così spesso perché è un po', diciamo, un retaggio della cultura contadina, nel senso che prima veniva fatta, a ragion veduta in realtà, però veniva fatta spesso perché praticamente tagliare molto basso una pianta poteva servire a varie ragioni, tra le più classiche quella di accumulare legname, perché da quel punto lì poi la pianta in un anno fa tantissimi getti che sono oltretutto facili da tagliare perché sono bassi, e quindi magari è, diciamo, una riserva di legname piuttosto immediata che può far comodo. Allo stesso modo si faceva per esempio con i salici, anche, probabilmente già lo sapete, tra l'altro si dice proprio capitozzatura a testa di salice, ora vabbè non entriamo nello specifico, ma si fa tuttora con i salici, perché poi quei getti nuovi sono tutti fini e morbidi e si usano facilmente e sono molto utili per gli intrecci di vimini. Quindi probabilmente si fa ancora la capitozzatura perché è un po' un retaggio, un po' quella cosa che si dice, ma sì, li fa bene alla pianta, la rinvigorisce. Ovviamente sbagliatissimo. Ecco, quindi abbiamo detto che cos'è, diciamo che conseguenze ha. Innanzitutto per la pianta è un estremo stress, prima di tutto è uno stress proprio inimmaginabile. Cioè immaginatevi che abbiamo un essere vivente di un tot di chili e noi gliene asportiamo la metà, cioè la metà della sua biomassa la asportiamo, la metà o quasi, cioè è uno stress immenso veramente. Quindi in questo frangente è necessario fare un attimino una pausa e ragionarci un attimo. Per quanto possa essere piantata vicino a un edificio, per quanto possa essere che ci piace la pianta per qualche ragione capitozzata, ha senso stressare così tanto una pianta? Cioè, se abbiamo un albero in ambiente cittadino, può essere anche solo per una questione estetica, ma probabilmente anche per una serie di altri benefici funzionali, ecosistemici, che a noi fanno comodo, per esempio l'ombra, per esempio la cattura di CO2, per esempio la cattura di polveri sottili, insomma una serie di benefici numerosissimi e importantissimi che gli alberi ci danno, soprattutto in ambienti cittadini e appunto stressati e complicati. Se però le nostre piante, i nostri alberi in città sono piante stressate, purtroppo avviene spesso, anche al di là delle capitozzature ci sta che siano comunque stressate, tutte quelle funzioni ecosistemiche per cui noi le abbiamo piantate, loro faranno un sacco di fatica in più a farle, perché non mi metto a dilungarmi a riguardo, però la fotosintesi, che è quel processo per cui le piante si mangiano e si pappano molto volentieri la CO2, avviene quando la pianta sta bene. Se la pianta non sta bene, quel processo è estremamente rallentato o addirittura in alcuni casi anche invertito, cioè in piccolissima parte, però la pianta può rilasciare anche CO2. Quindi bisogna far sì che le nostre piante stiano bene e siano il più possibile in salute. Bene, dopo questo piccolo pippone direi di andare avanti e di capire quali altre conseguenze ha la capitozzatura sui nostri alberi in città. Cosa succederà? Succederà che appunto abbiamo tagliato, asportato tantissima parte della pianta e abbiamo fatto dei tagli che probabilmente sono anche tagli estremamente grossi, estremamente larghi, e quindi intanto la pianta cercherà, come fa sempre, di rimarginare, di cicatrizzare le ferite. E capiamo bene che più la ferita è grande, più farà fatica a cicatrizzare e più ci sarà il rischio di appunto malattie, funghi e quant'altro che entrano da quelle ferite, perché la pianta ancora non ha finito di cicatrizzare e nel frattempo entra roba. Oltretutto quello che si genera, e questa è la cosa a cui di solito non pensiamo quando commissioniamo una capitozzatura, è che da quel punto lì, poi dipende anche un po' dalla specie che abbiamo tagliato, ma diciamo le latifoglie comunemente hanno tante gemme latenti, gemme avventizie si chiamano, ovvero quelle gemme che si attivano soltanto in momenti di estremo stress, di appunto di panico, diciamo, e sono sparse un po' a giro su tutto il tronco, su tutto il fusto, abbastanza ovunque. Quindi nel punto in cui tagliamo, in cui abbiamo tagliato, lì tutte quelle gemme scoppieranno in un anno solo. Perché abbiamo tagliato tanto, lo stress è tanto, quindi tutte quelle gemme reagiranno, perché la pianta si è vista asportare tantissime foglie o potenziali foglie, tantissimi rami, e quindi vuole metterne tanti nuovi, no? Per cercare disperatamente di riequilibrarsi. Quindi quello che succederà è che da uno stesso punto del fusto usciranno tantissimi nuovi rami, piccoli ovviamente, perché il primo anno saranno piccoli e anche perché sono tutti uno appiccicati agli altri, quindi non hanno fisicamente lo spazio per ingrandirsi, per allargarsi e crescere quanto vorrebbero. Quindi entrano tutti in competizione l'uno con l'altro e quindi succede per esempio che nessuno di questi spesso e volentieri riesce a prendere il sopravvento sugli altri, perché sono tutti tanto in competizione fra di loro, e quindi succederà che la pianta non riesce, anche se ci prova, ma non riesce a, diciamo, ristabilire, ricrearsi una branca principale da quel taglio che abbiamo fatto noi. E quindi succede che tutte quelle nuovi rami rimangono lì anche gli anni dopo e provano a crescere tutti insieme, ma non ce la fanno. E quindi succede che si crea una situazione di estrema instabilità, perché quel poco ingrandimento che riescono a fare lo fanno tutto uno addossato a quegli altri, quindi tutte le loro corteccine che si toccano l'una con gli altri e che creano un sacco di punti di praticamente un ancoraggio veramente ridicolo, cioè sono ancorati veramente veramente male al tronco. Nel frattempo però un pochino si ingrandiscono, per cui iniziano a mettere foglie, iniziano a mettere altri rametti in cima e quindi iniziano a pesare di più. E poi spesso e volentieri succede che cascano, perché il punto d'ancoraggio era veramente veramente non sufficiente, il peso è aumentato in cima e quindi cascano, quindi si creano tutti questi ramettini veramente pericolosi. Oltretutto, come se non fosse abbastanza, come forse avete già capito, quel punto lì è un punto dove non circola aria, dove c'è tantissimi rami, una appiccicata a quegli altri, c'è il ristagno di umidità. E quindi, di nuovo, torniamo lì, si crea un ambiente molto favorevole per malattie e funghi. Quindi a maggior ragione quei rami poi oltretutto si ammalano e quindi a maggior ragione cascano e fanno danni a cose e persone. Quindi, ecco, l'ultimo invece conseguenza che la capitozzatura ha sulla pianta è che di punto in bianco la pianta non ha più rami e quindi di punto in bianco il fusto, quelle poche branche diciamo primarie, quei moncheroni rimasti, sono completamente esposti all'irraggiamento del sole, cosa che non succedeva fino al giorno prima, quindi la pianta è veramente completamente squilibrata a quel punto e quindi questo, ecco, è uno stress ulteriore e di certo la pianta non ne sarà contenta. Parliamo a questo punto sempre delle conseguenze, ma delle conseguenze che tutto ciò porta su di noi esseri umani. Quindi se si è detto che la potatura la facciamo per un interesse nostro umano, capiamo quale conseguenze negative c'è per noi. L'abbiamo in parte già detto, branche molto instabili, quindi non mi sto a ripetere. E quindi sia nel primo anno dopo la potatura, sia anche per gli anni successivi, l'instabilità e la pericolosità di quelle branche rimane, anzi aumenta. In più abbiamo poca ombra, perché se abbiamo tagliato dei rami enormi che facevano un sacco di ombra bella, chiaramente per quanto la pianta si possa sforzare di rifare tante nuove foglie, eccetera, non riuscirà a rifare tutta la copertura appunto ombrosa che c'era prima, e quindi poca ombra, più caldo, più isola di calore, meno cattura degli inquinanti, insomma non serve a niente, via la capitozzatura, l'abbiamo capito. In più, vabbè, come abbiamo detto prima, la pianta è sotto grande stress, per cui tutte le funzioni ecosistemiche buone le fa con più difficoltà. E infine, ma ultimo ma non meno importante, alla fine dei finali la capitozzatura ci costa di più. Questo perché come intervento nell'anno, cioè nel momento in cui si fa la capitozzatura, quell'intervento di potatura costa molto meno rispetto a una potatura ragionata e funzionale, ma necessiterà per forza di cose di continuare a potarla anche gli anni dopo. E quindi invece di riuscire a potare una pianta una volta ogni 5 anni, per esempio, bisognerà farlo una volta all'anno minimo. Quindi alla fine in realtà la capitozzatura non è conveniente nemmeno dal punto di vista economico. Questo ovviamente è quello che si cerca di spiegare ai clienti piuttosto che all'amministrazione, insomma, comunale e quant'altro, ma non si capisce bene ancora come mai, nonostante si parli di soldi, comunque rimane un punto ostico a volte. Thank you. E quindi siamo alla fine di questa puntata. È stata un pochino, forse, un pochino più ostica anche della scorsa, mi dà l'idea, un pochino più tecnica. In realtà le ultime pochissime cose da dirvi a riguardo della capitozzatura. Quindi abbiamo capito il perché non va fatta, però purtroppo c'è anche da capire cosa fare nel caso in cui è stata fatta da qualcun altro e ci ritroviamo una pianta capitozzata quando non avremmo voluto che lo fosse. In due parole, veramente, ovviamente quello che sarebbe auspicabile riuscire a fare è di tornare a una situazione migliore, quindi cercare di ripristinare una forma della chioma più naturale. Questo magari cerchiamo di farlo, diciamo, quindi una volta capitozzato, una volta che ci sono tutti questi rami che partono, no? Tutti insieme, tutti appiccicati, come vi dicevo prima. L'anno dopo magari ne leviamo tanti, ne leviamo alcuni, cercando di lasciarne degli altri, non solo uno, perché sarebbe anche lì di nuovo uno stress troppo grande. Quindi facciamo via via negli anni una selezione, diciamo, delle branche che ci interessano di più, per sperare che la pianta riesca effettivamente a scegliere quelle branche che noi l'abbiamo lasciato come, obiettivo, e quindi come parti dove mandare tanta energia e ripristinarle come, appunto, diciamo, branche primarie. Quindi questa è la cosa che possiamo provare a fare. Non è però sempre possibile, perché alcuni casi sono veramente molto drammatici, per cui si tratta magari di piante che sono state capitozzate da anni e quindi ormai si è creata quella che si chiama testa di salici, che prima ho nominato, quindi quell'ingrossamento del fusto in un certo, o delle branche proprio le primissime, molto grandi, insomma, per cui da lì la pianta non riuscirà mai a ricreare un punto di ancoraggio sufficientemente solido per una branca vera e propria, una branca grossa e pesante. Quindi in quei casi lì purtroppo l'unica cosa che possiamo fare è continuare a capitozzare, cioè a capitozzare, diciamo, a ritagliare nuovi getti di anno in anno e a fargliene fare di nuovo altri nuovi. Questa purtroppo è l'unica cosa che possiamo fare in alcuni casi. Sì, queste, diciamo, sono le due opzioni. Nel caso, scusate, della prima, quindi in quella in cui si riesce a ripristinare invece una forma sensata, o se siamo bravi e se la pianta non è troppo stressata e reagisce bene, eccetera, eccetera, riusciamo in una serie di anni a ripristinarla completamente. Oppure possiamo, diciamo, arrivare a una via di mezzo, per così dire, che è il topping, ovvero una situazione in cui, diciamo, una capitozzatura ma in piccole piccole dimensioni, per cui invece di quella che di solito viene chiamata capitozzatura, ovvero tagliare le branche principali o addirittura sul fusto, non tagliamo lì, ma è una capitozzatura molto più in alto, quindi delle branche molto molto più secondarie in alto nella pianta, dalle quali però ritagliamo lì ogni anno, perché da lì si ricreeranno di nuovo tanti rami, appunto numerosi rami tutti dallo stesso punto, un po' come la capitozzatura, però tutto in minore dimensione, per cui anche il rischio che si crea, diciamo, che avranno quei rami lì del cadere, del diventare pesanti, del creare appunto un pericolo per i cittadini, e sarà tutto molto molto ridotto. In più è una potatura che costa ma non eccessivamente, quindi forse ci possiamo anche permettere di farla di anno in anno. Insomma, è un po' quel compromesso, un po' quella via di mezzo che può funzionare, diciamo, se non abbiamo altre alternative, può funzionare. Per esempio, ecco, si usa anche nel caso in cui l'impianto sia stato fatto in modo sbagliato, troppo vicino agli edifici, e quindi magari sono a 4 metri di distanza dei platani, sono a 4 metri di distanza da una casa, da una schiera di palazzi, e l'unico modo che abbiamo è continuare a tagliarli a pochissima distanza e continuare a ritagliarli sempre in quel punto lì. Che dire, questa è stata un po' una panoramica, mi scuso se un po' boriosa, sinceramente, un pochino più tecnica, però mi sembra che in questo, diciamo, frangente del capire come diciamo, aspettarci una buona gestione del verde urbano, mi sembrava più che doverosa e utile. Non sono scesa neanche tanto nello specifico, quindi poteva andare peggio, vi assicuro. E spero che comunque vi sia interessato il tutto. Che dire, con Nervature ci risentiamo allora lunedì prossimo, sempre alle 19, diciamo all'incirca alle 19. Io vi auguro una buonissima serata, continuate a rimanere connesse sulle frequenze di Wombat per le prossime trasmissioni o la musica, insomma, che comunque sempre e comunque vi accompagnerà insieme agli spottini. Ci sentiamo quindi appunto lunedì prossimo, buona serata a tutte e tutti e vi lascio un po' di sottofondo musicale per continuare a sballettare qualche minuto. Stop it.